Buonasera, con questa edizione straordinaria del nostro telegiornale nel nostro studio c'è il padre, intanto buonasera. Buonasera. Ma non le sembra che la reazione di suo figlio sia un po' esagerata? Io intanto volevo dire che dissento. Non è che lui abbia torto, e ha ragione, ma con questo sistema, in questo modo, lui dà la ragione e passa torti.